Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ho fatto io un colpo di telefono perché ho visto che non arrivava a terra. Scusami. No, no, tranquillo, perché dopo noi ci siamo un po'. Persi. Buongiorno. Bene. Buongiorno. Allora, chi racconta cosa stiamo facendo? Chi vuole raccontare? Dai, vai Linda. Stiamo girando il paese per capire che lavoro fa la gente, quali sono le loro passioni, sì? E cosa gli piace fare veramente. Come si chiama? Io, Nicola Dal Pra. Che lavoro fa? Parrucchiere. Cosa fai di solito? In che senso? Al lavoro. Al lavoro facciamo un po' di tutto, dai tagli di capelli, colori, di tutto. Quanti anni hai? 44. Perché hai scelto questo lavoro? Allora, il perché? Bella domanda questa. Un input iniziale può essere stato mio fratello, che magari lui è parrucchiere anche lui, perciò all'inizio può essere stato quello, e dopo la passione per il lavoro, quando inizi vedi che è una cosa che piace, perciò è bello. Ha fatto altri lavori in passato? No, no. Ti sei mai pentito di una tua scelta? E forse sì, quella di non essere andato all'estero a fare questo lavoro qua, per imparare una lingua, quello sì. A che età hai iniziato a fare il tuo lavoro? A 14 anni. Una volta si poteva, adesso no. Lavori a tempo pieno oppure fai pausa pranzo? Dipende dai giorni. Certi giorni facciamo pausa pranzo, certi giorni facciamo continuato. Ti trovi bene a fare il tuo lavoro o vorresti cambiarlo? No, per niente. Mi trovo benissimo. Bene? Sì. Ti trovi bene con tutti i tuoi colleghi? Sì, ci sono degli alti e bassi. Con i colleghi sì, più che altro è con i dipendenti, che è un po' più difficile da gestire la cosa. Ha mai cambiato negozio sede? Sì, abbiamo cambiato negozio. Siamo stati 6 anni, sempre qua a Folgaria, dall'altra parte del paese, dopo l'ambulatorio medico, e adesso sono dal 2000 che siamo qua, sono 22 anni, il primo di maggio. Lei lavora come assistente o un negozio è suo? No, è mio. Io e di mio fratello, metà. Qual era il suo sogno da bambino? Ma, allora, sogno da bambino... Non è che avevo sogni in particolare, soprattutto anche a livello lavorativo, perché non è semplicissimo riuscire a trovare. Magari il sogno si avvera quando sei un po' più grande, quando vedi che la scelta che hai fatto si è dimostrata valida. Hai mai fatto dei viaggi di lavoro? Sì, ne facciamo tantissimi viaggi di lavoro, ne facciamo parecchi, cioè tutto l'anno. Allora, una volta andavamo un po' più lontani. E pre-covid tipo Milano, quelle cose lì, adesso si sono un po' più avvicinati, a volte li facciamo anche interni al negozio, per comodità e due per la problematica covid che c'è. Adesso si inizia un po' a liberare, perciò siamo andati anche a febbraio, siamo andati a Prato e dopo ci sono tanti corsi anche qua vicino, Rovereto, Trento, quei corsi lì. Quanti dipendenti ha? Allora siamo io e mio fratello. Ho 5 dipendenti qua e 2 dipendenti di sopra in estetica. Abbiamo 2 ragazze di sopra in estetica. Prima abbiamo parlato dell'arrivo, che era una cosa molto interessante, con Alessandro Pavone, scultore, che diceva sì. Va bene la creatività, ma serve organizzazione, sì. Tecnica, credo che sia anche per il tuo sì, lavoro. Sì, questa qua è la cosa, soprattutto l'organizzazione del lavoro è la cosa fondamentale. Riuscire a organizzare, soprattutto allora, perché se sei da solo organizzi il lavoro per te, perciò sai che, non so, parti la mattina alle 9, così. Quando hai dei dipendenti, riuscire a farli lavorare tutti nello stesso modo, con la tempistica giusta, è una cosa difficilissima da fare. Quella, l'organizzazione all'interno del lavoro, quando si hanno dei dipendenti, è la cosa più importante da fare. Mi sembrava che l'avesse detto anche la signora in albergo, vero, l'altro giorno, questa cosa di saper coordinare. Vabbè, il coordinamento quando si ha dei dipendenti, anche perché sennò se non sei coordinato, cioè ti trovi il momento che hai casino e magari 2 ore dopo non hai nessuno. Certo. E questa è la comodità, noi abbiamo sempre lavorato su appuntamento, a parte adesso con la storia Covid che l'appuntamento era diventato obbligatorio per le varie cose sanitarie e così, però quell'appuntamento diventa indispensabile quando hai dipendente, così sennò ti trovi magari quando apri alle 2 10 persone Certo. e alle 5 non è nessuno, invece Sì. riesci a... Aspetta che è partito lei, prego. E vendete prodotti di una marca in particolare? Noi abbiamo solo dei prodotti dell'Oreal, cioè la nostra L'Oreal dipende da varie famiglie L'Oreal. L'Oreal è la ditta principale, poi ha una linea un po' più specifica per quanto riguarda i trattamenti e lavateste, così, che si chiama Kérastase, e dopo ha delle altre ditte, però noi quelle non le usiamo, noi usiamo praticamente Oreal e Kérastase all'interno del negozio, non abbiamo altre, siamo tipo monomarca, diciamo. Ci sono state clienti che non gli piaceva il taglio? Sì, quello sì, però si riesce sempre, bene o male, a volte, e una volta era un po' più difficile, adesso è molto più semplice perché tutti abbiamo il telefonino con delle foto, delle cose così. Una volta invece, non so, una veniva e ti diceva voglio farmi i capelli rossi, ma per lei magari il rosso era un arancione. E quando tu facevi il rosso, io ti ho fatta rossa, ma no, ma io non volevo questo. Invece adesso con i telefonini, con gli iPad, con quelle cose lì, è molto più semplice questa cosa qua, è difficile sbagliare, proprio Prego. sbagliare. Sbagliare è umano, tutti sbagliano, nessuno è perfetto. E bisogna riuscire a trovare come sistemare la cosa. È ovvio che a volte ci sono delle cose che quando non so, uno viene e ti dice fammi la frangia, voglio la frangia, una volta che l'hai fatta, la frangia Poi è è interessante fatta. questa cosa, quanto conta la vostra immagine per gli altri, no? Adesso noto che Sì, è adesso scesa l'età. è scesa molto e soprattutto magari anche i ragazzini come loro vengono già. Cioè, una volta diceva, veniva la mamma e dicevo, tagli i capelli così, che andava bene o non andava bene, quello facevi. Adesso invece, allora, c'è un po' più di libertà nel confronto dei ragazzini che giustamente riescono a scegliere le cose come vogliono loro, come piacciono. Ma questo penso sia nei capelli, nel vestire. Una volta, anch'io quando ero piccolo, mia mamma, non è che dicevi, metti su quelle. No, quelle te metti. Per noi è bello perché a volte, magari anni fa, facevi un taglio che piaceva alla mamma, ma non piaceva a me. Perciò la mamma era contenta, ma la bambina o il bambino di turno andava fuori, non dico piangendo, ma comunque non. Adesso ho TikTok, così vengo, voglio la frangia così, voglio le ciocchettine così, le voglio. Quello No, aiuta ho parlato molto. prima, vero? Facciamo qualche domanda anche alla Giada, se avete bisogno. C'è anche lei. Da Lei quando... è mia nipote, è la figlia di mio fratello, perciò è un continuamento delle. Hai studiato intanto? Io ho fatto 4 anni di Prego, se parrucchiera, fai ho fatto anche un pezzo di estetista per avere la doppia qualifica e ho finito gli studi, adesso sono qua. Che è una domanda che abbiamo fatto spesso quando abbiamo trovato loro i figli, se è stata una scelta o quasi un Sì, obbligo. magari involontariamente lo zio e il papà ci hanno trasmesso qualcosa, però non è stata una mia scelta, anche perché sennò, insomma, fare un lavoro tutta la vita che non ti piace, insomma, risulta anche difficile. Sì, Quindi è sì, sì. proprio una scelta. Ma da quanto lavori qui? Allora, io da luglio definitivo sono qui, altrimenti mentre andavo a scuola in estate e in inverno veniva a fare la stagione, insomma. Ma quali tagli sono i più venduti? Non capisco. Quali tagli sono i più venduti Ma no, Si sa negli parlare di moda allora? Di moda? Cioè che moda c'è Sì, adesso? esatto. Allora, più che moda, negli ultimi anni non c'è più una moda specifica. Cioè, anche i corsi che facciamo noi, per ogni, in ogni, noi di solito facciamo 2 stagioni, cioè fanno la stagione autunno-inverno e primavera-estate. All'interno dei due corsi che facciamo, ci sono vari tipi di tagli, perciò ci sono dei tagli che possono andare bene sui capelli lunghi, dei tagli che possono andare bene sui capelli corti e dei tagli sui capelli medi. Perciò è un po' passata, una volta c'era più, non so, quest'anno va il capello corto, quest'anno va il capello lungo, invece adesso l'hanno un po' suddivisa così. È un po' difficile, non c'è più una moda particolare. Ci sono tutti questi studi che guardano le mode, però le mode le vanno a creare su quello che hai vestiti, partono sempre tantissimo dai vestiti, perciò non so, cose che possono andare, che una volta andavano sulle spalline, di conseguenza cose più gonfie, anche sulla testa inizia ad andare delle cose più gonfie, collegato molto su quello che è la moda dei vestiti, il nostro lavoro, quello sì.